Allora, volevamo andare a parlare con te, la radio ne ha parlato anche nei giorni scorsi, a fare un po' il punto sull'esperienza del Laboratorio Zero, esperienza che qualcuno voleva chiudere, ma che la determinazione nei giorni scorsi degli studenti e dei precari ha riaperto. Se ci puoi raccontare un po' qual è lo stato dell'arte in questo momento, anche il rapporto non soltanto magari alla riapertura dello spazio, ma anche proprio anche al rapporto con l'università, che insomma si è distinta in questo frangente per voler chiudere questa esperienza. Sì, in questo momento diciamo gli spazi sono stati occupati ieri, ovviamente sono un paio di giorni, diciamo abbiamo un paio di giorni di impasse, perché purtroppo questi signori che millantano la riapertura di uno spazio l'hanno quasi diciamo distrutto, murandolo in più parti e mettendo dei cancelli e saldando le porte, quindi in questi giorni siamo rientrati e stiamo provando a diciamo rimetterlo in sesto, ci hanno anche staccato la corrente in gran parte del posto. La situazione penso è quella che conoscete un po' tutti, che avete letto sui giornali e anche ai TG nazionali. Lo spazio zero nasceva da un'esperienza di continuità con il movimento studentesco di questi ultimi 3 anni, voleva essere uno spazio di discussione, di confronto e di diciamo di incontro anche tra la metropoli molto complessa come quella napoletana e lo spazio universitario all'interno dell'università orientale, che negli anni si era sempre distinta per un diciamo anche a livello accademico per un interesse verso questi temi. Purtroppo ci rendiamo conto all'interno della crisi con l'irrigidimento del comando, anche diciamo quelli che dovrebbero essere gli atenei più democratici poi si trovano di fronte alle contraddizioni fortissime dell'epoca che viviamo. Proprio diciamo la rettrice dell'Orientale si è fatta protagonista di un episodio quanto mai grave. All'Orientale di Napoli la polizia non era mai entrata negli ultimi dal 1968 nei locali dell'ateneo, non solo hanno sgomberato diciamo una parte dell'Orientale, cioè la mensa sta all'interno di uno dei palazzi della sede dell'ateneo, ma sono entrati all'interno in assettanti sommossa, scatenando anche un po' la rabbia degli studenti che hanno diciamo si sono indignati durante tutta la giornata. In questo momento il rapporto con l'università non c'è, cioè è un botta e risposta sui giornali, noi abbiamo anche lanciato dei segnali di apertura, perché pensiamo in questo momento poniamo al centro delle questioni quelle della nostra generazione, quelli del movimento studentesco, siamo convinti che c'è necessità di conservare questo patrimonio, siamo convinti io come generazione zero che non c'è nessun futuro possibile se non quello legato diciamo all'esperienza, a quella diciamo e la produzione che è dentro il movimento studentesco. Quindi vorremmo tenere aperti degli spazi che sappiano essere in continuità con quell'esperienza. E siamo disposti a confrontarci con tutti sui temi, sulle questioni tecniche, poi diciamo, ne discuteremo nei tavoli tecnici, ma l'Orientale in questo momento preferisce, vista la difficoltà del momento, preferisce uscire sui giornali, oggi addirittura sulla Repubblica, su Martino, la Viganoni, che è il rettore dell'Orientale, ha dichiarato che gli studenti che occupano i locali della mensa sono fascisti, perché questo diciamo è una modalità fascista occupare dei locali. Noi vorremmo oggi probabilmente ricorderemo alla rettrice Viganoni che le democrazie in questo diciamo anche le democrazie liberali sono nate da momenti di forza, atti di approvazione diretta, assolutamente con quello di occupare una mensa non può essere considerato un atto violento, visto che non fa del male a nessuno, e che purtroppo le dittature nel mondo cominciano quando la polizia inizia a frapporsi tra il rapporto tra gli studenti e le istituzioni accademiche. Quindi è forse lei che si deve interrogare su quello che ha fatto. Noi stiamo chiedendo a gran voce le dimissioni. Partiremo in questa settimana con un appello pubblico da far firmare un po' in tutta Italia, anche per la gravità della situazione. Stiamo provando a rimettere in sesto zero e ripartire subito con incontri, dibattiti e diciamo assemblee, perché questo è quello che ci interessa nell'immediato. siamo convinti che l'esperienza di zero non sia, diciamo, riduttiva a uno spazio sociale, ma che riguardi più in generale una generazione, anche una generazione che è ben determinata territorialmente, che ha poca intenzione, diciamo, di andarsene. Possono provare a sgomberarsi quando vogliono. Penso che si è dimostrato in modo molto chiaro che zero non ha intenzione, diciamo, di scomparire. Infatti io tipo l'altra domanda che ti volevo fare è questa, nel senso, la cosa da me più interessante che è emersa anche da l'esperienza breve, ma anche insomma l'evocazione di questo spazio, è come anche il ragionamento vi ha portato a occupare questo luogo, a difenderlo, sia ben inserito, sia, come dici te, nel contesto metropolitano napoletano, ma anche nella volontà di riprendere in mano dalla parte di sinistra, dai movimenti, la questione meridionale in qualche modo, dicendo anche noi non vogliamo andare via, non vogliamo emigrare un'altra volta. Esiste una questione anche, no, con, io non so in che rapporto sia poi l'occupazione, compagni e fare roba, e ad esempio anche gli incontri orientali ci sono stati, no, sulla questione del sud, i sud del mondo, e sì, soltanto qualche tempo fa, che mi sembra una chiave di lettura della realtà che vi circonda, insomma, che riprende in mano, insomma, un filo di ragionamento importante. Sì, anche in realtà, diciamo, anche l'esperienza dei seminari sui sud del mondo, sulla sudalternità, viene da uno stimolo che si è prodotto all'interno del movimento di questi ultimi 3 anni. Diciamo che abbiamo la stessa madre, come diciamo, per dare un'immagine. Ovviamente molti compagni di zero hanno seguito quel percorso, sono interni alla LUS, abbiamo stimolato negli anni questo tipo di ragionamento e ne siamo un po' tutti quanti, diciamo, figli. Ormai è palese che c'è necessità anche di pensarsi nei termini, se qualcosa ci ha insegnato questi movimenti degli ultimi anni, ci hanno insegnato che in qualche modo bisogna anche ripensarsi, diciamo, in chiave territoriale. Poi abbiamo un'emergenza che è quella delle migrazioni da sud verso nord, che, diciamo, è in forte aumento e che comunque vede ogni anno 10.000 campani partire verso il nord per non tornare mai più. Noi abbiamo voluto segnare in maniera forte questa cosa anche, diciamo, nel nome, che in realtà partiva da zero semplicemente, è nato così, poi c'è stata, diciamo, l'intuizione di aggiungere questo 8-1 per legarlo al prefisso della città di Napoli, perché siamo convinti che questa sperimentazione per noi può essere una speranza. Noi vediamo nel percorso di zero la speranza non solo di continuare quel percorso di discussione teorico che in qualche modo ha visto protagonista la LUS e che ci interessa moltissimo perché può anche darci delle chiavi di lettura e delle risposte, ma pensiamo che sia necessario sperimentare anche delle pratiche che possano essere concrete rispetto alla volontà forte di tanti di noi di poter rimanere qui al sud, a Napoli, o perlomeno di poter scegliere se andare via o no, perché già essere davanti alla possibilità di una scelta sarebbe una condizione, diciamo, auspicabile. Oggi purtroppo finita l'università o finita la scuola, l'emigrazione è una condizione quasi naturale, ti viene anche, diciamo, consigliato come unica speranza di vita, anche perché è difficile vedere delle alternative oggi qui al sud dentro questo livello di crisi. Io, se non hai altro aggiungere, ti ringrazio, ci andiamo poi magari a risentire stasera, se ci sono aggiornamenti significativi, o insomma nei prossimi giorni, per vedere come resiste e come va avanti l'esperienza di questo laboratorio che avete rioccupato all'orientale. Vi salutiamo, un abbraccio, insomma, buona fortuna anche ai prossimi giorni. Ciao. Ciao.